Avanzi di Manera, la rassegna stampa che non ti aspetti, di Leonardo Manera e Daniele Ceva. Buongiorno anche questo sabato pomeriggio, come sempre siamo qui, sono Leonardo Manera e sono qui insieme a Daniele Ceva. Daniele Ceva, che inizialmente all'inizio di questa trasmissione definivamo critico da bar, perché è un uomo privo di qualsiasi cultura specifica. Però sarebbe bello che quelli che ci ascoltano sapessero anche quali studi ha fatto, qual è la sua cultura specifica. Io ho fatto elettrotecnica e poi in un secondo tempo ho fatto il liceo linguistico. Quindi non ha messo a frutto né l'una né l'altra, perché è qui a fare il critico da bar. Ma ho fatto l'elettrotecnico per anni. Con che risultati? Scarsissimi. Se sono qui a fare il critico da bar, lei si renderà ben conto. È qui a fare il critico da bar perché noi commentiamo delle notizie magari un po' insolite che troviamo sia sui giornali che anche in internet. Per esempio, vogliamo partire con questa. Sembra che si sia deciso di fare in Cina dei marciapiedi con corsie dedicate appunto a chi guarda lo smartphone anziché la strada. Perché, Ceva? Perché ovviamente ci sono questi personaggi, ma noi li vediamo tutti i giorni anche nelle nostre strade, che camminano. Si spieghi meglio, Ceva, velocemente. Camminano guardando lo smartphone anziché guardare dove mettono i piedi. Quindi in Cina hanno pensato bene che, onde evitare incidenti, gente che si schianta contro i pali o contro altre persone, di fare delle corsie apposite dedicate a queste persone che vanno in giro disattente e distratte dallo smartphone. Perché sembra che le persone che fanno incidenti a piedi guardando lo smartphone siano di più di quelli che fanno incidenti in macchina. Capisce che il problema è che io darei anche dei cani guida per chi cammina con lo smartphone. E allora hanno fatto queste corsie piene di frecce, dove uno, leggendo lo smartphone, però può anche guardare per terra le frecce che gli indicano dove andare. Lei ha mai sbattuto contro un palo? No. Fa sempre ridere quando una persona camminando va sempre un palo. È lo slapstick. Una volta, tanti anni fa, leggendo un giornale, però prima degli smartphone, quindi quando c'era ancora Caballero. Caballero, certo. Leore, lei è stato un grande consumatore di questi. Un grande abbonato di Caballero più che Leore, perché era più crudo. Caballero era più crudo. Però queste sono cose che succedono andando per strada. Poi camminando per strada arrivi in un bar. E chi ti trovi in un bar? A Udine ti trovi queste due persone, una coppia, 53 lui, 46 lei. E si vede che insomma erano travolti dalla passione e hanno fatto sesso sui tavolini di un bar nel pieno centro di Udine. Finché uno dei passanti ha deciso di partecipare. No, alcune persone si sono fermate e alcune hanno guardato. Invece un'altra ha chiamato la volante, il 113. No, maledetto. E la donna seminuda è costretta a rivestirsi. I due sono stati denunciati per atti osceni in luogo pubblico. A lei è mai capitato di avere un rapporto così sessuale dentro un bar? No, dentro un bar no. Sì, ma no, non sui tavolini. Dove l'ha fatto? Insomma, dica. Però nei bagni. Nel bagno? Una cosa tristissima. Anche a me è capitato nel bar. Tanti anni fa. Lo dice perché è fidanzato fisso e quindi non vuol sapere che è successo 6 mesi fa. Comunque, in realtà è capitato anche a me. Proprio in un bar di fronte alla stazione centrale qui a Milano. Addirittura proprio un bar pessimo. E mi ricordo che erano quelle porte dei bar che non vanno proprio fino a terra, restano un po'. Sì, si vedono i piedi. E io vedevano i piedi noi due, e fuori c'erano 4-5 filippini che aspettavano. Questo è veramente incredibile. È così, Beniamino. Beniamino, che è il risultato di quel rapporto. No, nel bagno del mio bar. Figlio Beniamino, che è il proprietario di questa voce, non era ancora nato. Penso che fosse 2000. No, certo, è stato concepito lì. Va bene, guardi quante battute ci sono sui baci, sul sesso, sui rapporti. Ieri era la festa della maestra e allora le ho portato una mela e lei, per ringraziarmi, mi ha dato un bacio. Oggi le ho portato una grossa anguria, ma lei non ha capito. Di Mario Zucca questa, Mario Zucca. Stavo baciando una in un vicolo cieco, si è acceso il lampione e mi sono accorto che era uno. Ho continuato perché era davvero bravo, dei fichi d'India. E allora noi abbiamo voluto capire anche con una telefonata fatta a caso, come facciamo sempre qui ad Avanzi di Manera, che cosa avreste fatto voi se aveste visto due persone che facevano sesso sui tavolini di un bar. Vediamo cosa ci ha risposto questa signora. Pronto, buongiorno, qui Radio 24, la radio del Sole 24 Ore, la conosce? No, io sono una persona di una certa età e i miei figli mi gestiscono la vita. Stiamo commentando qui alla radio una notizia di due persone, un uomo e una donna, che in un bar di Udine si sono fermati sul tavolino e hanno fatto l'amore lì sul tavolino praticamente. E un altro dei clienti del bar ha chiamato la polizia per atti osceni in luogo pubblico. Secondo lei è una cosa giusta? Ma per carità, ma che siamo? Ma dov'è un po' di civiltà? Ma lei ugualmente avrebbe chiamato la polizia oppure no? Ma certamente, ma che scherziamo davvero? Beh, è una manifestazione d'amore comunque, vuol dire... Ma l'amore si può manifestare ma in tante maniere, no? Non a fare scandali. Però è un atto naturale, diciamo che è una cosa che fanno anche, per esempio, gli animali nei prati. Sì. E come lo fa? Però io non lo ritengo sempre una cosa molto delicata, molto riservata. L'ho ritenuta riservata e ora non... Sono una certa età e sono rimasta sola. Sicché... Però è anche vero che volendo potevano uscire dal bar gli altri clienti, invece alcuni si sono fermati a guardare e hanno. Ecco, quelli ancora più sciagurati di chi stava facendo l'atto. Signora, posso chiedere quanti anni ha lei? 78. Cos'è la cosa più brutta, la manifestazione più brutta che fanno gli italiani secondo lei in luogo pubblico? La cosa che proprio bisognerebbe evitare, il vizio nostro italiano principale? La bestemmia, la maleducazione. Ecco, io una cosa. La maleducazione, la volgarità. Ma quindi se due persone per esempio fanno l'amore in un luogo pubblico bestemmiando è il peggio che si può? Uno so, o due, una peggio dell'altra. Capito, ecco. Quindi condanniamo quelli che hanno queste manifestazioni disdicevoli, è giusto? Benissimo. Grazie signora. Arrivederci. Arrivederci. Però noi stiamo parlando di cose che succedono per strada, in giro, al bar, quindi ci occupiamo sempre di spazio pubblico. E per strada succede anche che una persona che era in bicicletta ai limiti del coma etilico ha preso 48.000 euro di multa. Questo vuol dire che lo stato in guida di ebbrezza non è riservato solo a chi va in macchina, ma anche invece a chi va in bicicletta. E a questa persona che ha causato un incidente, nel quale peraltro si è fatto male lui perché ha avuto un trauma cranico e non l'automobilista, però ecco, lui è stata inflitta una pena di 48.000 euro. Si chiama Nicola Bergamini, è diventato imputato in questo processo a Rovigo e aveva la bellezza di 2,75 grammi di alcol per litro nel sangue. 2,75. A me hanno ritirato la patente con 1,38. Che è, quanto aveva bevuto? Cosa aveva bevuto? Avevo bevuto del vino, tornavo da una cena, insomma, sotto Natale, no? Queste cene qua, finito un laboratorio comico in quel di Gattinara, che si sa, insomma, il vino è molto buono, niente, mi hanno fermato in autostrada. Come funziona? A me non ho mai fatto l'alcol test, che cos'è? Ci spieghi come funziona? Allora, mi hanno fermato, tra l'altro io non ho commesso alcuna infrazione, quindi questo vorrei sottolinearlo. Beh, stavo andando oltre i limiti, ero ai 120 all'ora, perché è ben cosciente. In una strada con il limite del 70. No, ero in autostrada. Sulla 50 chilometri oltre la... Nessuna infrazione. Mi hanno fermato per un controllo. Mi hanno invitato ad andare all'autogrill con un megafono. Vada all'autogrill. E mi hanno fatto prima il test. Ti fanno prima una specie di microfono dove si vede se sì o no. Se quel primo passaggio risulta, insomma, che lei ha bevuto, poi fanno l'ulteriore test dove misurano il... La quantità, la percentuale di alcol nel sangue. Senta, ma lei come mai ha questa vita in cui si dedica così tanto agli alcolici? No, è capitato una perché... volta nella vita. No, ma si vede che lei arriva anche qui al ticcio. Infatti il curatore Guido Scotti ha sempre anche un po' da ridire, perché non è bello che qui negli studi Radio 24 entri un uomo... Va bene, però allora a questo punto rivelo un segreto. È Guido Scotti che mi offre sempre dei maraschini. E allora cosa succede se ci si comporta come Daniele Ceva, che insomma tende ad eccedere con gli alcolici, anche droghe, insomma, per lo più leggere, però anche non disdegna quelle pesanti, che a volte si finisce in carcere? E c'è stata questa notizia di questo truffatore, caro Ceva, che è riuscito a scarcerarsi in che modo? Praticamente ha mandato una mail alla direzione del carcere, però facendo finta che questa mail arrivasse dalla direzione praticamente generale degli istituti di pena. L'ha contraffatta così bene che è stata credibile ed è riuscito a essere scarcerato solo mandando una mail. Poi lo hanno ripreso e però gli hanno fatto i complimenti, esatto, le forze dell'ordine per la creatività, cosa che a noi manca. Perché abbiamo detto... facciamolo venire in trasmissione questa persona. Perché abbiamo detto questa notizia inutile? Per dire una battuta che invece è molto divertente, che è di Bianchi e Pulci. Lei sa chi sono Bianchi come e Pulci? Come no, certo. Sono due comici. Prima lavoravano insieme, adesso invece si sono divisi e la battuta è questa. Hanno che non interessava a nessuno questa cosa. Ma vediamo, è un po' di cultura comica che non guasta. Hanno preso un ladro d'auto specializzato nelle Ford, è soprannominato Epifania, che tutte le fieste si porta via. Ma adesso è arrivato il momento, prima del traffico, della nostra rubrica immancabile, che è scherzi telefonici venuti male. Scherzi telefonici, scherzi telefonici venuti male. Pronto, buongiorno, sono il presidente del consiglio Matteo Renzi. Lei sa che noi stiamo rendendo una parte di denaro ai pensionati che se lo sono meritati in base alla sentenza, un incremento, un bonus, come l'abbiamo definito noi. Venuto male, oh. Schifo. Pronto, buongiorno, sono Mike, buongiorno, stiamo cercando concorrenti per il nostro nuovo quiz Super Mike, volevamo sapere se lei è interessato a partecipare come concorrente. No, grazie, buongiorno. Ecco, però in effetti, cioè, non è che non ha creduto che lei era Mike Buongiorno, proprio ha detto di no, che non vuole partecipare al quiz. E quindi questo è venuto bene, l'altro è venuto male, quindi uno lo annoveriamo negli scherzi telefonici venuti bene e l'altro no. E in tutto questo adesso c'è il traffico. Guidate con prudenza. Sì, pronto? Qui è Radio 24, la radio del Sole 24 Ore, la conosce? No, non mi interessa niente, arrivederci, sai. non rompete più i maroni. Avanzi di Manera, la rassegna stampa che non ti aspetti. Allora, bentornati in questo sabato pomeriggio ad Avanzi di Manera. Noi diamo sempre il nostro indirizzo mail, che è avanzidimanera@radio24.it. Ma siamo invece molto interessati a questa notizia che ricaviamo. Quale? Ricaviamo da leggo.it. Lei sa cos'è Leggo? Leggo.it. Qual è, anche cos'è, scrivo.it. Cos'è, è un giornale di quelli che una volta andavano in metropolitana. In metropolitana, no? Che si, adesso si vedono meno in metropolitana perché le persone, credo, le abbiano tolti. Perché preferiscono andare in giro con lo smartphone e fare incidenti. E quindi questo giornale è diventato solo online, credo. Forse c'è ancora, però ogni tanto lo vedo in qualche metropolitana lontana, quelle le stazioni quelle vecchie, più periferiche. Le stazioni periferiche dove le persone forse usano meglio gli smartphone. Ma probabilmente. Vedi che argomenti interessanti abbiamo qui ad Avanzi in Maniera. Se allora, qualcuno sapesse come mai Leggo.it si trova solo in delle stazioni lontane, ce lo faccia sapere. No, casomai lì si trova Leggo, non Leggo.it. Leggo.it, perché ho letto. Totalmente impreparato. Ho letto punto. Non ha messo a frutto i suoi studi, diceva. Allora, la notizia è questa. L'orgasmo, cari amici uomini e donne, regala felicità come l'aumento dello stipendio del 130%. Ha capito qual è la notizia? Ho capito qual è la notizia. Che se lei ha un aumento di stipendio del 130%, ha la provo stessa, le stesse emozioni, lo stesso orgasmo praticamente. Ma lei è mai capitato? Di avere un aumento del 130%? Sì, ma l'ho speso poi tutto per avere un orgasmo. È uno studio che è stato fatto da due economisti e dice che le persone che hanno due o tre rapporti al mese dovrebbero più che raddoppiare lo stipendio per essere soddisfatte, come le persone che hanno rapporti quotidiani. Cioè, per essere felici non conta alla fine tanto il denaro, ma bisogna darsi da fare sessualmente. Sì, o un aumento di denaro. Solo che poi capita una volta. Certo, invece l'amore lo puoi fare. Anche l'amore lo puoi fare. Non è che lo puoi fare sempre, cioè in teoria dipende, non lo so. Si fa, quante volte si fa? Qua, non lo so, io pochissimo, non so lei, Manera, sono mesi o anni? Parliamo no, di mesi io o l'ho anni. Fatto una volta, va bene comunque. Una volta. No. Sì, una volta l'ho fatto anch'io, una non volta. Non è vero, sì. Anche gli ascoltatori. No, non sei neanche lamentata troppo, comunque. Ma poi tutte ste donne bisogna sempre soddisfarle in tutto, è un po' faticoso per noi poveri uomini o no? Sì. Bisogna molto. Essere tutto quanto, fighi, bravi a letto, però anche aiutarle ricchi. Nelle faccende domestiche. Che ricchi, altrimenti la donna si separa, esatto. Non è bello separarsi. E poi da lì diventa ricca, capito? Si separa per diventare ricca. Era convinto di essere bisessuale perché faceva l'amore due volte al mese. Bisessuale. È di un anonimo questa. No, non è un anonimo, secondo me parla di lei. No. Questa qui. Ce n'è una di Dario Vergassola. Mamma, che cos'è un orgasmo? Che ne so, chiedilo a tuo padre. E però a volte quando si comprano dei farmaci per non avere figli quando si fa sesso, no? Beh, sì, alcuni. Ci sono di tutti i tipi, diciamo, c'è la pillola classica, poi c'è il profilattico, c'è la spirale. Mi ha raccontato, che io non lo sapevo, che esiste una spirale sì? Semidefinitiva. Ah! cioè che la donna utilizza per 5 anni, la tiene per 5 anni. Lei la sapeva questa cosa? No, io conoscevo la spirale, ma non... Ma però la spirale si mette e si toglie. Invece mi diceva questa truccatrice con cui parlavo... Dica anche nome e cognome. Guardate che una notizia vera. Beniamino. Non sono cose che ti riguardano per l'età che hai, però... Mi ha detto che c'è una spirale semidefinitiva che si può tenere per 5 anni e la donna ti inibisce dalla possibilità di fertilità. Bene, saranno tutte felici le donne che hanno appreso questa notizia. Invece andiamo a vedere quella vera, quella che abbiamo trovato nella Huffington Post. Farmaci falsi, parlando di pillole, nelle case di 5 milioni di italiani, dalle pasticche per dimagrire a quelli per il sesso, farmaci per il sesso. Sembra che ci sia una quantità enorme anche in Italia di farmaci, soprattutto per dimagrire, appunto, per il sesso, tipo Viagra, Cialis, eccetera, e anche anticoncezionali che sono finti, falsi. E creano tantissimi danni collaterali. Quindi bisogna diffidare dal comprare le cose in internet di questo tipo, almeno. Non è che ci sia un effetto placebo, che ne so, io le dico che questo è un Viagra, lei lo prende, si eccita tantissimo, ma invece magari è una Ziguli. Ma non lo so, però cosa stavo dicendo? No, che magari funziona. Come si fa a verificare se funziona il Viagra? Che ne so, immagino provandolo e da effettivamente soli, se uno dice se funziona da solo. Allora, ho preso tante medicine che ogni volta che tossisco guarisco qualcuno. Le piace questa? Carina. Leggerei questa invece. Era così contagioso che le supposte le mettevano con la fionda. No, questa non l'ho molto capita. Ah, beh, certo, era contagioso e quindi doveva stare molto lontano, quindi loro dovevano prendere una fionda per mettergli le supposte. Lei l'aveva capita? Però noi prima parlavamo dell'orgasmo che regala felicità come l'aumento dello stipendio. Abbiamo provato a fare qualche telefonata per vedere cosa ne pensate voi. Sì. Pronto, buongiorno, qui è Radio 24. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, pronto, non sento, pronto. Allora è Radio 24, qui. Chi è? Radio 24. Ah! È una radio, lei sa la radio Marconi, così, conosce? No, non conosco Marconi. Pronto? Pronto, buongiorno, qui è Radio 24, la radio del Sole 24 Ore, la conosce? No, sono il figlio. Canta. Pronto, buongiorno, qui è Radio 24, la radio del Sole 24 Ore, la conosce? No, io non capisco, vuole vedere. Ma senti, guarda lei, c'è uno che parla al telefono, guarda qua, quando vuoi vedere, io non capisco, io so che dice. Possibilmente mi passa qualcuno. Signore. E possibilmente. Pronto? C'è qui. Buongiorno, è Radio 24, la radio del Sole 24 Ore, la conosce? Come? E è Radio 24, la radio del Sole 24 Ore, la conosce? Radio 24 Ore? Sì. Stiamo commentando una notizia secondo cui l'orgasmo regala felicità come l'aumento dello stipendio del 130%. Volevamo sapere cosa ne pensa lei in merito. Lei preferì... No, io non penso niente, mancano cose mie, pinge, veramente non ci sogno qua. E per quale motivo non può rispondere alla nostra domanda? Ma che ne faccio le domande? Sogno troppo impegnato, lo so. E lei venga di presenza, che ne ragioniamo, dai, mi dici come che si tratta. La domanda è la seguente: lei preferisce fare amore o avere un aumento di stipendio? Ma quale stipendio è che sono disoccupati? Ah, quindi preferisce fare l'amore per forza di cose? È meglio fare l'amore fino a quando non si trova. Va bene, per tempo da cogioneare, Buona Cogioneiamo. Che è pagato lei? Sì. Fa bene. Ma ringrazio che hai un poco d'impegno, Se viene di presenza ne parliamo. Arrivederci. Perché per telefono non so con cui stai parlando. Che è lei? Arrivederci. E allora noi siamo quasi addirittura d'arrivo. Prima abbiamo un'ultima notizia dall'Huffington Post, è questo. Aveva chiesto ai genitori un regalo per i suoi 9 anni, quello di poter avere una torta del suo cartone animato preferito, Little Pony. Al momento di spegnere la candelina ha trovato sì la torta, ma con la faccia e il sorriso di un altro mito, non certo un cartone, Little Tony. A Gangi, paese delle Madonie, qualcosa per una bimba non è andata secondo le previsioni. Sei pronto? Mi dovrebbe mettere Little Pony sulla torta da bambina. Questo è Little Tony. E gli hai fatto trovare lei che cosa avrebbe provato? Allora, lei era contenta la bambina quando ha visto la confezione della torta. Certo. Ma poi il suo viso, la sua espressione da gioia si è trasformata in incredulità e poi in tristezza. Il pasticcere di Gangi, che è questo paese, non proprio al passo con i tempi, ha realizzato una torta che raffigurava Little Tony. E sai dove l'ha comprata? Alla Lidl Tony, diciamo. Ma sai qual è il fatto? Che le cose, se avesse chiesto un cartone animato di Heidi, per esempio, una torta, perché una volta le cose rimanevano un po' più impresse nella memoria. Sì, adesso durano poco, quindi anche i pasticceri non riescono a salire. Quindi ma io, per non sbagliarmi, metto Little Tony, che ho un poster ancora qua in pasticceria. Tra l'altro Little Tony è morto. E quindi praticamente gli hanno fatto avere una lapide come torta di compleanno. E poi invece è ancora vivo Bobby Solo, no? Bobby che è Solo che cantava vivo. Una lacrima sul viso. Una... è più solo che mai da quando non c'è Little Tony. Perché andavano sempre insieme loro due, si ricorda? Cantavano un po' allo stesso modo, la stessa sì, frangia. Un po' la Elvis, cioè il ciuffo, c'avevano il ciuffo. La frangia ciuffo. Sono i capelli da una parte, no? No, la frangia sono i capelli che vanno tutti in giù davanti. Il ciuffo è. La frangia è confinando con l'Italia. L'Italia, la frangia, la Svizzera. Stiamo sforando. Stiamo sforando e abbiamo una notizia, una rubrica, scusate, immancabile, che è, insomma, si chiama Le idee di Daniele Ceva sono sue proposte per nuovi palinsesti televisivi. Mandiamo la sigla della rubrica. Le idee di Daniele Ceva. Allora, praticamente, questa mia nuova trasmissione che io propongo a tutti i produttori televisivi è Psicopatici nello spazio. Prendiamo 12 psicopatici, li chiudiamo nella Stazione Spaziale Internazionale, dalla Terra gli mandiamo degli impulsi per cui si accendono allarmi improvvisi e con una webcam li spiamo e vediamo questi psicopatici che urlano improvvisamente. E secondo me fa riderissimo. È una specie di reality. È una reality, una specie di reality, esatto. E poi non c'è bisogno di essere psicopatici, perché se mandi degli allarmi anche persone normali che sono nello spazio. Insomma, lo psicopatico reagisce in maniera violenta e più divertente. E poi, come ansiolitici, per questi psicopatici, delle boccettine che non riescono ad aprire. Quindi, ovviamente, è tutto molto esplosivo. È crudele, quindi è in linea con la nuova tendenza televisiva, che è di fare cose un po' cattive. E dopo questo momento di idee televisive, vogliamo come sempre finire con un avanzo di poesia tratto da internet, un poeta che si definisce uno qualunque in internet. Una bella poesia allegra. Ascoltiamo. Forza, vada, prenda coraggio, Manera. Lega. Ogni giorno è sempre più cupo. La depressione avanza e io non trovo scopo a questa mia esistenza. Sì, ma non è nulla di poetico, è una dichiarazione. È una poesia, se voi cercate su uno qualunque poesie, trovate questa. Ogni psicologo si sente dire questa frase ogni giorno, almeno 3-4 volte. Fa tutte poesie amarissime, questo uno qualunque. Vada a cercarlo anche lei. Ho dei sospetti di chi possa essere questo uno qualunque. Lei si sbaglia. Allora, anche oggi abbiamo terminato. Salutiamo Daniele Ceva. E Guido Scotti alla regia, Marco Pietro Del Conte, Pietro La Corte e ovviamente Leonardo Manera. Avanzi di Manera. Ciao, buon sabato a tutti.